Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovati alla terza puntata di Olimpiadi Insostenibili. Sono Salvatore e con me, come sempre, c'è Ivan. Ciao Ivan. Ciao, un saluto a chi ci ascolta. Dopo aver ascoltato e intervistato Gigi Casanova e Fabio Tullio, che hanno descritto e raccontato la situazione di Cortina, oggi ci spostiamo a Milano, l'altra città che ospita le Olimpiadi invernali. E per approfondire i tanti mali che portano le Olimpiadi a Milano, città che poi già 10 anni fa ha dovuto subire i danni causati dall'Expo, nostro ospite è Luca del collettivo Off Topic e del collettivo Comitato Insostenibili Olimpiadi. Ciao Luca. Grazie Ciao a tutti e a tutti e grazie dell'attenzione. Grazie a te, Luca. a te per aver accettato il nostro invito. Luca, il collettivo Off Topic lo conosciamo già perché l'abbiamo ospitato lo scorso anno per La Casa è un diritto. Tu fai però parte anche del CIO, come ho detto prima, il Comitato Insostenibili Olimpiadi. Ti va di presentarcelo? Sì, assolutamente. Come dicevi tu, Off Topic insieme ad altre realtà milanesi, collettivi di spazi sociali, collettivi che praticano lo sport popolare, lo sport da basso, attivisti dei comitati per la casa, o del comitato milanese Acqua Pubblica, insomma, una serie di soggettività come dire, del vasto ambito del movimento milanese, ma anche singole compagne e compagni, circa un anno e mezzo fa hanno dato vita appunto a questa rete, il Comitato Insostenibile Olimpiadi, volutamente chiamato così per fare da contraltare al Comitato Olimpico Internazionale, quindi ci definiamo il CIO buono contro il CIO cattivo. Dicevo, è nata questa rete proprio con l'intento, non tanto come potrebbe far pensare di fermare le Olimpiadi perché ci sembrava ovviamente un'impresa improba e ardua, ma è anche impossibile, ma semmai da un lato di essere un pungolo, una lettura critica e anche di iniziative su quello che sta accadendo non solo a Milano rispetto all'operazione Milano-Cortina 2026, ma soprattutto di provare a svegliare la città per il 22 marzo 2026, cioè il giorno in cui il baraccone Olimpiadi chiuderà. Ma le milanesi e i milanesi purtroppo dovranno fare i conti con le macerie, o come dicono loro, con la legacy che le Olimpiadi lasceranno. E purtroppo, tu ricordavi nell'introduzione, a Milano di Expo 2015, ci sembra di vivere un film già visto, con la differenza che rispetto a Expo 2015 sappiamo già anche il finale. La città che oggi vediamo a 10 anni da Expo è quanto di più lontano dalla città che vorremmo e ai noi molto vicina alla città che temevamo diventasse. Sì, Luca, a proposito di questo, volevo proprio chiederti, Milano è una città in continua trasformazione. Ecco, quanto queste Olimpiadi impatteranno ancora di più sulla città? Ma diciamo che da un lato, come appunto tu dicevi, Milano è una città in continua trasformazione e le Olimpiadi da questo punto di vista hanno un po' la stessa funzione che ebbe Expo appunto 10 anni fa. Quindi quello di da un lato dare fiato a un motore, che è quel motore che tiene in piedi la città, quindi da un lato l'attrattività per capitali, investimenti, soprattutto nel settore immobiliare, e dall'altro, come dire, qualificarsi nella teorica competizione tra le città globali come attrattiva turistica per eventi piccoli, medi, grandi. Noi simpaticamente, ma fino a un certo punto, amiamo dire che a Milano ormai ci sono più weeks che settimane, nel senso che ci sono delle settimane in cui gli eventi si accavallano tra loro, tutto con questa ricerca del brand o di un nome accattivante, ma lo scopo è sempre quello di attrarre nuovi visitatori o nuovi abitanti temporanei della città, perché appunto c'è la vocazione turistica, c'è la vocazione appunto della città di affari e quindi dove attirare persone che vengono a Milano per lavoro, ma anche e sempre più accentuata una vocazione che Milano non aveva mai avuta, quella di essere di città per studenti fuori sede, no? Anche qua, come turisti possibilmente ricchi, perché poi i prezzi sono quelli che sono. Quindi da un lato le Olimpiadi servono a questo, a tenere viva questa macchina. Dall'altro sono appunto l'occasione per prendere un pezzo di città e direttamente o indirettamente trasformarlo a uso e consumo dei vari sviluppatori immobiliari. Con Expo questo pezzo di città era l'estrema periferia nord-ovest, un territorio di frontiera tra i comuni di Milano e Pero, peraltro caratterizzato anche da aree non edificate. In questo caso l'impatto è più violento sulla città perché parte praticamente quasi dal centro della città, perché lo Scalo Romana, dove aveva sede il villaggio olimpico, è in linea d'aria a 1,5 km, 2 km da Piazza Duomo, per arrivare poi con i suoi effetti a toccare tutta la periferia sud-est della città stessa fino ai limiti del comune. Quindi sia un effetto predatorio che un effetto di volano per una macchina che è già in corsa. Senti Luca, come invece i cittadini e le cittadine dei quartieri coinvolti nel progetto olimpico vivono queste grandi trasformazioni urbane? Ma le vivono secondo me in due modi. Uno molto evidente, ed è quello per cui in tutta la zona a sud del villaggio olimpico, qualificata appunto come la zona del Corvetto Rogoredo, dal nome dei due quartieri storici e popolari che la caratterizzano, è quella dove negli ultimi mesi, anni, diciamo dal post-Covid in poi, sono più cresciuti i valori immobiliari, sia che parliamo di affitti, sia che parliamo di valori per l'acquisto, e parallelamente è la zona dove ultimamente, negli ultimi mesi, stanno battendo molto più spesso gli sfratti, gli sgomberi o anche fenomeni molto più, come dire, sottotraccia, per cui le case ALER che vengono sgomberate, ristrutturate, vengono vendute, ma così come vengono vendute le case di enti previdenziali, per citarne uno, l'ENPAM, che in zona aveva parecchi edifici che sono stati alienati, anche lì chi non poteva comprarsi e comprarle ha dovuto andarsene. Ovvero, peggio ancora, l'idea, anzi più che un'idea, la previsione di abbattere un gruppo di case comunali, popolari, perché considerate case tra virgolette minime, non più idonee, che verranno abbattute, e sulla ricostruzione anche qui non ci sarà posto per tutti gli abitanti che adesso le vivono. Quindi una conseguenza diretta, perché vuol dire appunto che in quella zona si sta proprio assistendo a una sempre maggior difficoltà degli abitanti originari o comunque di chi ci vive oggi a stare dietro al costo della vita e alle dinamiche che descrivevo. Dall'altra, se allarghiamo l'occhio su dei milanesi più più uno sguardo più ampio sui milanesi, direi di rassegnazione, perché queste dinamiche di cui stiamo parlando, questi fenomeni di continua edificazione su ogni centimetro quadrato libero, di continua privatizzazione di ogni pezzo e area di città pubblica, che fosse libero o no, appunto è un fenomeno che in questa città va avanti senza soluzione di continuità ormai da 20 anni. Sì, adesso c'è tutto il discorso delle inchieste, il Salva Milano, anche i media mainstream si sono accorti che esiste un problema di vivere a Milano e che non è solo l'inquinamento, ma che è proprio il modello di città che ci viene proposto. Però diciamo, il milanese medio si è molto assuefatto a questa cosa, un po' con la naturale sobrietà che caratterizza, come dicono i milanesi, un po' con la disperazione di chi, ahimè, è costretto a viverci e non vede alternative se non incazzarsi. Sì. Io mi soffermerei un attimo proprio su questo punto, quindi lasciando da parte quello che è lo sport, che magari poi ne parleremo dopo. E un dato di fatto è che risulta Milano una città sempre meno inclusiva, comunque poco inclusiva, nonostante appunto gli slogan proprio delle Olimpiadi parlano di impatto zero, inclusione, parole che creano un cortocircuito con la realtà dei fatti, poi, no? Quindi mi chiedo, questo beneficio delle Olimpiadi invernali a vantaggio di chi è e quanto gli abitanti a basso reddito verranno sempre più tagliati fuori da quello che è Milano, la socialità e il vivere in città. A me, sì, indubbiamente, chi ne beneficia è chi sta già beneficiando di questo modello di città. Teniamo conto che ormai Milano è una città mandata avanti, a prescindere poi da quanti ne siano, ma da uno stuolo di lavoratrici e lavoratori più o meno precari o anche a reddito stabile, ma sicuramente non idoneo ai costi di questa città, che sono il vero motore della città. Pensiamo, tutta quella pletora di persone che lavora a vario titolo nell'ambito commerciale o della ristorazione, tutte le catene della logistica, dalle grandi piastre di distribuzione per arrivare ai furgoncini che quotidianamente intasano la città, i lavoratori della gig economy, che siano, come dire, precari, sfruttati nelle grandi aziende, nei grandi marchi della gig economy piuttosto che i rider di Glovo o di Just Eat, le imprese di pulizie, ma addirittura ormai si vede anche nel cosiddetto terziario ricco, banche, assicurazioni che ovviamente in questa città occupano migliaia di persone, ha una dinamica crescente di impoverimento dello stipendio e del salario medio anche in queste categorie, perché ovviamente chi entra a livelli di retribuzione più bassi di chi esce per prepensionamenti o altri fenomeni. Quindi è una città che ha un ceto lavorativo, una classe lavoratrice con un reddito sicuramente più basso di quello che è il costo della vita e che indubbiamente i fenomeni olimpici, ma in primis la turistificazione, ma anche questa folle corsa al rialzo dei prezzi della casa, ma più in generale di tutto il costo della vita in città, non può che essere nocivo. E non è un caso che Milano, dopo una fase di crescita di abitanti attorno alla fine anni 0, inizio anni 10, dal post-Covid, iniziato dal Covid, ma soprattutto dal post-Covid, il saldo degli abitanti è stabilmente negativo. Arrivano tanti nuovi abitanti, c'è una ricerca che stima che fatta nel 2000 e 19, che chi abitava 15 anni nel 2019, chi abitava a Milano 15 anni prima, nel 40% dei casi non viveva a Milano. Quindi in questi ultimi 10-15 anni abbiamo già assistito a un grosso turnover della popolazione, e lo dimostra il fatto appunto che io abito in un quartiere periferico. Anche in questo quartiere periferico si inizia a vedere quel fenomeno che prima era assente di Airbnbizzazione, ovvero di studenti fuori sede che vengono ad alloggiare qui perché magari il pensionato muore, i nipoti affittano la casa, insomma, quei fenomeni che conosciamo, ma che portano al fatto che la città sta progressivamente sostituendo i suoi abitanti. Chi ci guadagna? Ci guadagnano i grandi sviluppatori immobiliari, le grandi finanziarie ed SGR che ormai si stanno spartendo la città, che abbiano alle spalle banche o assicurazioni, grandi multinazionali come Lendlease, Covivio o Hines o Blackstone, quindi fondi anche immobiliari o operatori locali, ma che, come dire, ormai sono i veri padroni della città, come Coima di Manfredi Catella o Fondazione Prada, che è quantomeno nella zona più interessate alle Olimpiadi, è un altro degli attori, non solamente da un punto di vista finanziario e immobiliare, ma anche nel determinare quei fenomeni culturali di gentrificazione che poi portano alla sostituzione abitativa. Senza considerare i migranti economici. Senti Senza considerare i migranti economici, esattamente. Luca, ci racconti cosa è successo e cosa succederà con l'ex scalo ferroviario di Sì, Porta Romana? Perché ho detto cosa succederà? Perché notizia di pochi giorni che ci sarà la riconversione degli alloggi per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, e che diventeranno uno studentato. Esattamente, sì. Allora, la vicenda dello Scalo Romana è un po' emblematica sia di quello che appunto sono le contraddizioni che l'operazione Olimpiadi si porta dietro, ma anche appunto il modello di governo della città, perché l'operazione Scali parte da lontano, se ne parla ormai da più di 10 anni a Milano, ed è appunto un po' il simbolo di quello che viene fatto a Milano con le aree pubbliche, perché degli scali ferroviari parliamo, quindi ex aree del demanio ferroviario, che sono state messe tutte a bando con un accordo di programma tra comune, sistemi urbani, che è la società creata da Ferrovie proprio per alienare e gestire queste proprietà, e appunto l'operatore immobiliare di turno che si aggiudica il bando. Nel caso dello Scalo Romana, il bando è stato aggiudicato da una cordata appunto di 3 operatori, Coima, Fondazione Prada e Covivio, con dei costi di aggiudicazione, ma anche degli oneri di urbanizzazione per le opere veramente irrisori, con l'impegno da parte degli operatori a realizzare appunto le strutture del villaggio olimpico, che peraltro chi ha visto le foto anche da un punto di vista estetico sono quanto di più brutto e simile a un alveare razionalista che ci sia. Con l'impegno appunto a fronte di questo aiuto nel compiere l'operazione delle Olimpiadi, ai 3 operatori è stata data la possibilità di riconvertire appunto il villaggio olimpico poi in uno studentato che sarà in parte convenzionato, ma con tariffe che sono quanto di più lontano dall'idea che uno ha di tariffe accessibili a costi bassi, perché parliamo comunque dai 600 euro al mese a salire, per arrivare fino ai 1.000-1.200 euro al mese, e di realizzare su tutta la parte dello scalo rimanente, e che non è, che non rim e che non sarà più in uso alle ferrovie, l'ennesimo, come dire, mix di residenza a vario titolo, che va dal più o meno lussuoso fino al cosiddetto housing sociale, anche qui col ricattino di dire ti fai più volumetrie, mi dai un po' più di housing sociale e spacciare questo per la soluzione ai problemi abitativi, quando appunto sappiamo benissimo che l'housing sociale e la casa pubblica e popolare sono due cose assolutamente differenti per condizioni di accesso e per prezzi ovviamente. Tutto il bluff di questa cosa, oltre appunto a come dire, la perdita da parte del pubblico di un'area per realizzare i profitti di privati, che poi siano profitti con la vendita delle case o profitti attraverso le rette degli studentati, poco cambia. In contraccambio appunto di oneri, come dicevi, irrisori, di un po' di housing sociale, e con questa finta narrazione, prima si parlava delle narrazioni della città, no? Di Milano, il posto da vedere, ecco, poi c'è anche tutta la narrazione green, per cui lo scalo diventa un regalo alla città perché creerà delle aree verdi. E dove sta il bluff di tutto questo? È un bluff che si porta avanti addirittura dalla giunta Moratti, che quando fu fatta il primo piano di governo del territorio che prevedeva il cambio di attività sugli scali, quindi la loro dismissione. In tutte le mappe che accompagnano il piano di governo del territorio, gli scali sono sempre stati considerati come uno spazio occupato. Fa niente se per il 75%, 80% a volte della loro superficie era occupato sì da binari e traversine, cioè non c'erano manufatti, non c'erano edifici, non c'erano volumetrie. Loro con questo giochino di farlo vedere sulle cartine come aree nere anziché come aree bianche, di fatto dicono: siccome qua era tutto nero, io per metà te lo do a verde o al 40% te lo do a verde, di fatto sto regalando del verde alla città. In realtà lo scalo romano al 70% era occupato da natura che si stava spontaneamente riprendendo il territorio che non era più utilizzato dall'uomo. Quindi c'è anche questo bluff ambientale, oltre alla retorica della città da attraversare, dei nuovi quartieri da vivere, dietro questa operazione. Sì. Un altro termine che, di cui si sente parlare, a mio parere, sempre molto abusato è sostenibilità. Verde, sostenibilità. Quanto il greenwashing washing copre la cementificazione in città? Ormai sempre meno, nel senso c'è stato un momento in cui, e più o meno lo ascriverei nella fase pre-Covid, per usare questo riferimento temporale, se vi ricordate era anche il momento in cui Sala scendeva in piazza a fianco dei Fridays for Future nei primi cortei oceanici italiani dei Fridays for Future. È durata poco perché ovviamente l'evidenza quotidiana che portava appunto a vedere che aree verdi venivano devastate per fare operazioni immobiliari. Di fatto in questi 5 anni, al di là dell'istituzione di Area B, ma seri provvedimenti sul traffico, seri provvedimenti per una mobilità dolce, realmente sostenibile, non ne sono mai stati fatti. Sul trasporto pubblico si è stati capaci di regalare la metro gratis ai visitatori del Salone del Mobile in una città che spende decine di milioni all'anno per come dire, sistemi di controllo del pagamento del trasporto pubblico, quando quelle decine di milioni all'anno potrebbero essere spesi per abbassare i costi del trasporto pubblico, no? E quindi tutte queste cose messe in fila, ormai non ci crede più nessuno, tanto è vero che anche Sala ultimamente su questa, come dire, narrazione di Milano, la città green, ci gioca meno. Poi in realtà sull'operazione Olimpiadi è una delle cose su cui invece hanno spinto molto, così come in tutti i quartieri, nuovi, c'è sempre qualche richiamo in qualche modo al green. C'è un dato curioso: nei famosi 150 progetti sotto inchiesta, soprattutto in quelli proprio bloccati dalla magistratura, diversi di questi interventi hanno dentro espressioni che richiamano al green, al lake, allo sky, cioè comunque a elementi della natura, no? Perché fa chic, fa moda, fa niente se poi parliamo magari di palazzi di 20 metri quadri, di 20 piani tirati su in uno spazio di 200-300 metri quadri in mezzo a un cortile. Dicevo, anche sulle Olimpiadi ci hanno giocato molto, nel dossier stesso di candidatura, lo ricordavate anche voi, si è parlato di saranno le Olimpiadi più sostenibili di sempre, anche a questo non ci crede più nessuno, soprattutto dopo la vicenda dell'Aricetro di Cortina, ma anche a Milano, al di là di quello che ricordavo sul villaggio olimpico, teniamo presente che per poco che verrà fatto a Milano, scalo romano a parte e completamento di Santa Giulia col Pala Italia a parte, il resto che su Milano, sulle Olimpiadi, non si vede perché? Perché sono tutte infrastrutture viabilistiche, ma parliamo di decine e decine di opere, alcune che finiranno nel 2040, no? Ma nel 2030 probabilmente sì. Che ovviamente vanno ad alimentare il consumo di suolo e un modello di mobilità che è assolutamente fossile, privato e su gomma. Quindi di sostenibile non c'è veramente nulla, a partire appunto anche se vogliamo dalla parte economica, visto che saranno tutti soldi pubblici quelli che verranno spesi e visto che non ritornerà nulla neanche in termini occupazionali perché chi ci lavorerà gratis. Quindi insostenibile anche da un punto di vista lavorativo, viene da dire. Sì, volevo chiederti, giusto se mentre parlavi stavo facendo una riflessione, se mi sai dare mi sai dire quanti saranno i siti olimpici realmente? Perché poi appunto, secondo me, è tanto quello che è al di fuori. Allora, i siti olimpici veri su Milano saranno quattro: lo stadio di San Siro per la cerimonia inaugurale, il Pala Italia e il Forum d'Assago, Pala Italia in realizzazione, e il Forum di Assago per quanto riguarda le discipline su ghiaccio, il villaggio olimpico ovviamente, e poi l'appendice dei due padiglioni temporanei in fiera a Rho, anche lì sempre per lo short track. Quindi opere definitive legate alle Olimpiadi su Milano sono solamente il Villaggio Olimpico e il Pala Italia. Poi abbiamo Bormio e Livigno, dove lì le opere sono al di là sempre, ovviamente, come dicevo prima, di tutto ciò che è infrastrutturale per arrivarci. Quindi saranno più che altri nuovi impianti di innevamento, impianti di risalita, allargamenti di piste. Poi Val di Fiemme, dove anche lì i lavori riguardano più che altro sistemi di innevamento e la ristrutturazione del trampolino di salto, Cortina, quindi pista da bob, villaggio olimpico, che peraltro non è ancora iniziata come realizzazione, e anche lì opere per l'innevamento artificiale, e Anterselva con ristrutturazione del peraltro recentissimo stadio del biathlon, e anche lì un nuovo impianto per l'innevamento artificiale. Poi vabbè, ci sarà la cerimonia finale all'Arena di Verona, ma al momento non mi risultano soldi spesi, anche perché l'Arena non sarebbe mai ristrutturabile in un anno. Allora, conoscendoli però, guarda, non mi stupirei già se la Ci buttassero inventano lì. qualcosa, ci inventano qualcosa, può Senti, essere. Luca, Milano ormai è città olimpica, però il diritto allo sport, come dicevi tu inizialmente, è sempre più negato. Cioè, fare sport ha dei costi inaccessibili e quindi bisogna difendere a tutti i costi le palestre popolari. Ti faccio due domande: com'è la situazione a Milano per quanto riguarda lo sport popolare? E soprattutto, poi voi qualche mese fa avete organizzato le vostre Olimpiadi, cioè Esatto. le Utopiadi, se ti va anche di parlarne di questo avvenimento. Sì, faccio una brevissima premessa a proprio affermare un dato di fatto. C'è il caso di Torino, ma non solo di Torino a dimostrarlo. Non c'è più alcun legame tra il fatto che una città, un luogo ospiti un'Olimpiade e, come dire, un effetto alone positivo sulla pratica dello sport di base. Torino, ci sono ricerche citate anche in un libro di un nostro compagno, Silvio La Corte, la bolla olimpica, che evidenzia come anzi lo sport di base a Torino dopo le Olimpiadi abbia visto via via diminuire praticanti, un po' appunto per i fenomeni simili a quelli che dicevi tu, un po' perché appunto non è che le Olimpiadi portano un messaggio di praticate lo sport, no? Venite a vedere delle gare, pagate cari dei biglietti e poi a casa tutti. La situazione milanese è una situazione da questo punto di vista drammatica, perché con le solite argomentazioni, quindi costi di gestione, necessità di ristrutturare gli impianti, necessità di far fronte a altre priorità di spesa, bilancio comunale, morale. Da un po' di anni a questa parte vediamo un progressivo disimpegno della parte pubblica nell'erogazione dei servizi sportivi e ricreativi di base, che siano palestre, che siano centri sportivi, che siano piscine. Emblematico è il caso dello storico Lido di Milano, il centro acquatico più grande della città, che è chiuso da anni ed è in attesa di essere ristrutturato dopo essere stato messo a bando e preso in carico da una società spagnola che si occupa di gestire impianti sportivi, ma ovviamente in forma privatistica. Quindi c'è una sempre maggior difficoltà ad accedere agli impianti. Questo parallelamente negli anni ha visto un positivo e crescente fenomeno di pratica di sport popolare, che è nato soprattutto in ambito box e calcio. Box perché ovviamente, come dire, negli spazi sociali occupati c'erano possibilità di reperire spazi dove fare palestre e quindi allenamenti per la box. Calcio, direi anche un po' per la progressiva disaffezione forse anche di molti giovani e molte giovani rispetto a quello che è lo sport, il calcio professionistico mainstream, diciamo così. Negli anni a queste società, a questi collettivi si sono affiancate anche altri sport, dal rugby a attività sportive magari più di nicchia nell'ambito delle arti marziali o la pratica dello yoga. Insomma, oggi a Milano c'è una rete di collettive e collettivi che praticano sport popolare decisamente diffusa, nonostante una crescente difficoltà legata al fatto che, appunto, avendo principalmente negli spazi sociali il luogo dove fare allenamenti e le varie pratiche, come dire, la difficoltà oggi in una metropoli come Milano, ma non solo a Milano, alla luce del decreto Piantedosi, di tenere o rioccupare spazi sociali rende spesso anche difficile poi reperire spazi per praticare lo sport popolare. Il calcio si salva un po' di più perché, come dire, è anche più facile trovare campi che a cifre tutto sommato accessibili. Se uno deve fare la partita la domenica, te la fanno fare, ecco, diciamo così, o quantomeno se uno deve fare i tornei dello sport popolare, non ha neanche il problema dello stadio o quant'altro e quindi dei costi da sostenere per la struttura. Noi abbiamo appunto provato, come ricordavi tu, nell'autunno scorso a mettere insieme questo aspetto, quindi la progressiva chiusura degli spazi pubblici di Milano per la pratica dello sport, con un aspetto, se vogliamo, di denuncia, sia il fatto che nella Milano delle Olimpiadi invernali, dove si spendono svariati milioni di euro per costruire un nuovo palazzetto, c'era un palazzetto del ghiaccio, il Palagorà, chiuso da anni anche qui perché la società che la gestiva è fallita, il comune non intende più sovvenzionare la struttura e quindi a Milano c'è un palazzetto del ghiaccio chiuso, se ne fanno di nuovi e quindi legando queste due cose abbiamo voluto provare a suscitare un immaginario, a dire facciamo le utopie, ossia facciamo vedere che si può praticare sport dal basso in maniera sana, senza sponsor né niente e riprendersi un luogo per praticarlo. Non vi nascondiamo che stiamo già pensando ad altre utopie, poi magari non le chiameremo così, ma ad altri momenti perché crediamo che proprio portando lo sport popolare per le strade o nei luoghi abbandonati di questa città sia una delle risposte migliori e più simboliche proprio rispetto a quello che questa città sta diventando, a prescindere dalle Olimpiadi stesse, ecco. Luca, 10 febbraio c'è stata una grande manifestazione, vuoi raccontarcela? 9, 9, scusami. sì, 9 febbraio, sì, 9 febbraio. C'è stata questa giornata nazionale diffusa di mobilitazione e manifestazioni in difesa delle terre alte, partite da Milano perché appunto una delle realtà che compone il CIO è APE Milano, l'Associazione Proletari Escursionisti, che appunto avendo come sua attività principale quella di provare a portare in maniera diversa anche qui dalla narrazione mainstream, le persone in montagna, possibilmente a impatto zero da un punto di vista economico, ambientale, climatico, e insomma, questa attenzione alle terre alte ha fatto sì che dentro il CIO APE si occupasse di tenere poi tutti i legami a livello nazionale o tramite le altre sezioni di APE diffuse sul territorio con tutte quelle realtà che dal Veneto per arrivare alla Basilicata a vario titolo si mobilitano si mobilitano, fanno iniziative, stanno contrastando piccole grandi nocività che caratterizzano le terre alte, la turistificazione folle e nociva, piuttosto che l'abbandono e lo spopolamento di quelle terre. Ovviamente sono situazioni differenti da chi è mobilitato contro nuovi impianti da sci, a chi appunto sull'Appennino si mobilita contro le cave nelle Apuane o contro appunto altri interventi nocivi, a chi è in Valtellina, per esempio, è attivo contro le opere olimpiche. Per cui era già stata fatta una prima giornata lo scorso anno, chiamata Ribelliamoci al peggio, sempre a ridosso della data che verrà l'inizio delle Olimpiadi, cioè il 6 febbraio. Quest'anno si è replicato con questa nuova iniziativa, la montagna non si arrende, proprio con l'idea di, come dire, costruire un filo comune, perché è un po' come si diceva prima. Così come a Milano le Olimpiadi di fatto portano avanti e accelerano o alimentano un modello di sviluppo della città che già esiste, analogo discorso si può dire per quanto riguarda l'impatto che le Olimpiadi hanno non solo su Cortina, Bormio, Livigno, sulle località direttamente interessate, ma rispetto come dire, a un modello di utilizzo della montagna, delle terre alte, che è fatto appunto di turismo invasivo, di antropizzazione spinta anche di località e ambienti remoti, di impianti a fune che devono portare i turisti ovunque, piuttosto che di strade che devono portare i turisti ovunque. E se questo modello è insostenibile in pianura, figuriamoci in ambienti fragili e delicati, quali sono gli ecosistemi montani, quanto ciò può essere invasivo e insostenibile. Questo filo rosso appunto si è creato nella giornata del 9, che ha visto decine di località mobilitate, ognuna con le sue parole d'ordine. Noi in particolare ci siamo recati a Bormio, dove abbiamo appunto, nonostante i divieti, le prescrizioni, il clima quasi di terrore che è creato nella cittadina dalle forze dell'ordine, prefettura, che sembrava che arrivassero gli Unni in montagna a devastare Bormio, e nonostante la neve, che non c'è mai tranne quando manifestiamo noi, siamo riusciti a fare quattro presidi mobili, quindi abbiamo toccato vari punti della conca di Bormio, a vario titolo toccati appunto da interventi olimpici e appunto muovendoci di fatto in corteo tra i quattro presidi, quindi giornata direi da questo punto di vista riuscita, ma soprattutto un'iniezione di fiducia a chi poi sta su quei territori, perché se è difficile oggi in questi tempi fare attivismo in città, ancora di più lo è per chi magari è sparso in paesini da 1.000-1.500 abitanti, distanti mezz'ora, 40 minuti di macchina uno dall'altro. Luca, noi abbiamo, cioè tu hai, diciamo, parlato, diciamo, delle trasformazioni che avverranno o che sono già avvenute a Milano e a Cortina, ma quanto anche la provincia subirà cementificazione e trasformazione? Sì, il fatto stesso di sviluppare le Olimpiadi in un arco che da Milano a Cortina, toccando appunto le varie località, vuol dire 400-450 km di territorio, inevitabilmente si portava con sé una conseguenza inevitabile e che poi, come dire, è una consuetudine che abbiamo già visto in Italia più volte. Le Olimpiadi, da questo punto di vista, ma come è già stato in passato, mi viene da dire, giubilei, mondiali di calcio e chi più ne ha più ne metta, questi mega eventi diventano l'occasione per far sì che piccoli, medi, grandi centri di potere della macchina pubblica tirino fuori dai cassetti ognuno il loro progetto, per il semplice motivo che da un lato c'è il finanziamento pubblico e quindi soldi che arrivano anche al di là spesso di quello che sarebbe normale spendere per un determinato, per una determinata opera. Dall'altro soldi che arrivano in un regime di gestione che è spesso commissariale, in deroga, fuori da quelle che sono le valutazioni ambientali strategiche o le valutazioni ambientali, spesso anche derogando agli iter normali che devono avere appalti o controlli da parte di enti locali di secondo o terzo livello, insomma, diciamo in regime di emergenza per semplificare. Spesso anche voluto perché è stato così già per Expo, ma è uguale per le Olimpiadi, perché appunto essendo un qualcosa che poi tira in ballo interessi di vari ministeri o ANAS o società di scopo costruite ad hoc, fa sì che prima che le cose partano si arriva sempre lunghi. Si arriva magari per caso, secondo noi anche volutamente, proprio perché l'arrivare lunghi poi consente di dire ok, adesso andiamo in deroga e andiamo d'emergenza. Tutto questo per dire cosa? Per dire che se noi prendiamo il dossier olimpico, ci accorgiamo che c'è una parte di opere cosiddette assolutamente indispensabili, necessarie, che se non si fanno si muore, non si fanno le Olimpiadi, dove ci sono dentro appunto il villaggio olimpico e altre cose, che tutte sommate arrivano circa 4 miliardi e che sono gestite soprattutto da Simico e qualcosa da ANAS. E poi c'è una pletora di altri interventi dove c'è dentro di tutto e dove si parla di altre, a memoria mia, almeno di 4-5 miliardi. Per opere che, come dicevo prima, alcune vengono definite collaterali necessarie, altre strategiche, altre di contesto, insomma, chi più ne ha più ne metta, alcune che non si faranno mai e che hanno spesso anche orizzonti di tempo lunghissimi. Per cui, sì, per rimanere anche solamente attorno a Milano, praticamente in tutta la direttrice Milano-Lecco-Sondrio ci sono decine e decine di piccole opere anche in comuni sconosciuti ai più, opere magari anche da costi notevoli, e che, come dire, non vanno a risolvere spesso problemi di trasporto o di spostamento, ma che serviranno solo a velocizzare in quei giorni l'accesso ai turisti. Fa niente se poi in Valtellina c'è ancora una ferrovia monorotaia. Io prima di salutarti, Luca, volevo con te guardare al futuro, no? E chiederti questo: come si salva Milano da questa situazione e che eredità lascerà questo evento alla città di Milano? Allora, parto dalla seconda perché, diciamo, la cosa più semplice da dire è l'eredità che lascerà queste Olimpiadi è di ritrovarci un altro pezzo di città uguale, se non al 100%, ma quantomeno nel senso, a quello che già può essere oggi diventata Isola con annessa Porta Nuova o City Life, cioè l'ennesimo quartiere dove c'è il grattacielo, c'è le cose per attrarre turisti e poi dopo appunto deserto sociale ed esclusione. Da un punto di vista concreto, la legacy che loro vorrebbero lasciare appunto sono gli studentati e la quota di housing sociale dentro il villaggio olimpico e ben 2 giorni di utilizzo all'anno gratuito. Di disponibilità per il comune dell'utilizzo del Pala Italia, ben 2 giorni all'anno, perché è Ticket One che gestirà il Pala Italia dopo le Olimpiadi, è molto generosa. Quindi una legacy assolutamente irrisoria, visto che appunto la città non aveva bisogno del Pala Italia, ma soprattutto la città non aveva bisogno di tutta l'operazione scalo. quello che noi ci piacerebbe pensare, e quindi vengo alla prima parte della tua domanda, è appunto infilarsi in quella crepa temporale che va dalla fine delle Olimpiadi alla riconversione dello scalo, e provare a invertire un po' la rotta rispetto a quello che era il modello attuale di questa città, cioè provare a pensare al contrario, cioè una città che ritorna a mettere al centro la sua funzione pubblica e non l'essere semplicemente il regolatore di interessi del finanziere o dell'immobiliarista di turno, che concretamente vorrebbe dire, per esempio, un diverso equilibrio nella quota e nei prezzi per accedere allo studentato, e quindi aumentare la quota di studentato con accessi a prezzi popolari e non quindi andare a foraggiare coima più di tanto, visto che in questa città ci ha guadagnato parecchi milioni o miliardi di euro. Identicasi rispetto alla parte abitativa. C'è questa cosa per cui ti faccio fare più volumetrie in cambio l'housing. Se deve essere questo il ricatto sia ti faccio fare più volumetrie, ma mi dare case popolari, non l'housing, Certo. perché è un'altra cosa. Ci piacerebbe, ma qui non sappiamo quanto, perché poi la realtà è che noi vediamo una difficoltà anche proprio di chi a vario titolo oggi è attivo nei vari movimenti per la casa a creare un fronte comune, perché poi anche a Milano, come dire, le occupazioni tra virgolette politiche, diciamo così, che quindi erano in grado anche di costruire una rete di solidarietà e di resistenza tra gli abitanti, in questi anni sono state in buona parte spazzate via e sgomberate. Quindi anche organizzare, senza usare parole grosse nel termine resistenza, ma anche un minimo di, ripeto, di solidarietà e di percorsi che poi possono portare a dire appunto all'ALER o al comune: non vendere le case o non sgomberare le persone è sempre più difficile. Però sarebbe un'altra delle cose che potrebbe muovere questo, è proprio, ecco, forse quello che manca a Milano da questo punto di vista è un momento forte in cui la città tutta, chi appunto è attivo per la casa, chi è attivo a vario titolo contro questo modello di città, prenda parola per le strade. Ecco, questo è quello che potrebbe, da qualche punto di vista, provare a ostacolare la macchina del modello Milano. Volendo fare un paragone adesso, un po' quello che è successo a Madrid qualche mese fa, quando 150.000 persone sono scese per le strade rivendicando il diritto alla città, il diritto ad abitare, un po' come era successo a Roma con Roma non si vende, cioè manca un po' in questo momento questa presa di posizione forte della città. Pezzi più o meno piccoli che lo fanno, iniziative, ma non ancora quella forza d'urto che potrebbe smuovere le cose, ecco, quantomeno iniziare a smuoverle. Sì. Forse però il DDL 1660 non Non aiuta. aiuta, purtroppo Non aiuta no, sicuramente, non aiuta. purtroppo no. Ecco, vi voglio lasciare con una cosa che forse avete visto, se non l'avete visto, ve la racconto tanto, è molto breve. Per dare un po' l'idea, io prima dicevo, Milano è la città dove ormai comandano i palazzinari, al punto tale che noi abbiamo ormai anche una delle principali istituzioni culturali di Milano, cioè il Politecnico di Milano, che si sta trasformando sempre di più da soggetto, come dire, di cultura, di formazione, anche magari di confronto dialettico. Ovviamente poi parliamo di ingegneria, quindi, o architettura o design, non è che parliamo di filosofia, però ha saputo esprimere anche pensiero critico negli anni quell'ambito. al luogo invece assolutamente funzionale a questa città e ai poteri di questa città, al punto tale che settimana scorsa ha diramato sostanzialmente un comunicato di censura, come dire, rifiuto ad ospitare una conferenza attorno alla giornata mondiale sull'acqua con Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, perché il suo intervento sarebbe stato contro gli sprechi idrici per le Olimpiadi 2026. E nel comunicato del Comitato Scientifico del Politecnico si dice esplicitamente che era meglio che in quella giornata non intervenissero voci in polemica con l'operazione Olimpiadi. Questo per darmi un po' il clima che si respira oggi in questa città, anche in luoghi che dovrebbero essere neutri e finalizzati ad altri scopi che non a fare da cassa di risonanza a chi su questa città ci specula. Andiamo con un po' di positività. Luca, noi ti No, ringraziamo grazie a voi e per fortuna o poi. purtroppo ci risentiremo, temo. Buona Ciao, serata, buona serata. ciao. Ciao, ciao. Ciao Luca. Ciao.